Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Renzo Rosso. I jeans che vanno a tutto diesel. Di Anna Marino. Il primo prodotto che ho fatto, il primo capo che ho fatto a casa mia era fatto con la macchina a cucire di mia madre, per cui non potevo usare la tecnologia vera delle macchine industriali con le quali si costruisce questo prodotto. Questo è un prodotto molto difficile da fare, è un prodotto che ha bisogno di un macchinario molto particolare, e qui era un prodotto, era il denim un po' fatto in casa, che aveva tutta la bellezza della silhouette, la bellezza del look, perché poi questo primo paio che avevo fatto l'avevo tutto bagnato con il cloro, era diventato una cosa molto modaiola, aveva 42 centimetri di campana di fondo, molto basso di vita. Per l'epoca era molto innovativo, rivoluzionario. Il re del denim, il genio dei jeans. Renzo Rosso è nato a Brugine, nel Padovano, nord-est Italia. I suoi genitori erano agricoltori ed è cresciuto nella semplicità, aiutando regolarmente suo padre dopo la scuola. Renzo aspirava a fare qualcosa di diverso e nel 1970 ha iniziato a studiare produzione tessile industriale presso l'Istituto Tecnico Marconi di Padova. Lì ha prodotto, all'età di 15 anni, il suo primo indumento autoprogettato, un paio di jeans a vita bassa e a zampa di elefante, cucito con la macchina da cucire Singer di sua madre. Produceva diversi modelli di jeans che dava agli amici o vendeva a scuola per circa 3.500 lire, l'equivalente di 1,80 euro a prezzi correnti, confezionandoli la sera. Nel 73 ha iniziato a studiare economia presso l'Università di Venezia. Oltre ad aiutare il padre alla fattoria, ha anche finanziato i suoi studi lavorando come meccanico e come falegname. Tempi di sogni e sacrifici. Il denim è parte della mia vita. Da quando ho cominciato poi a fare questo prodotto lo porto tutti i giorni. Arrivo perché mio padre voleva che qualcuno della famiglia facesse le scuole superiori, quindi ero l'ultimo della famiglia, gli altri due non l'avevano fatta e toccava a me. E scelsi la moda perché era una scuola senza insegnanti. Gli insegnanti erano tecnici proprio delle industrie che venivano a portare la loro educazione, il loro modo, come gestire le aziende. E quindi approdai all'Istituto Tecnico Industriale per la confezione a Padova, e da là cominciai a prendere mano con l'abbigliamento. Quindi a 15 anni poi, con la macchina da cucire di mia madre, feci il mio primo paio di jeans, perché il jeans era parte di me, ero ribelle, quindi sono un sessantottino. I Figli dei Fiori, i Beatles, i Rolling Stone, la marijuana, queste cose che cresci un po', i figli che andavano contro i genitori, che erano proprio un movimento abbastanza di cambiamento all'epoca. Il marchio italiano Diesel è stato fondato da Renzo Rosso e Adriano Goldschmidt. Anche se è stato lanciato nel 1978, ci sono voluti 13 anni per raggiungere la popolarità internazionale. Nell'85 Rosso ha acquisito la società e il primo negozio ammiraglio è stato aperto nel 96 a New York, quando la linea denim è diventata popolare negli Stati Uniti. Nei successivi anni, Diesel ha ampliato la propria linea denim con accessori, una linea per la casa, il profumo e la linea per bambini. Entro il 2001 la società ha aperto quasi 150 punti vendita, per poi crescere e crescere ancora. L'imprenditore è uno che ce l'ha nel sangue, come uno ha il DNA dell'artista o di altre cose. Questa è un tipo di carattere che nasci già dentro. Quando ho iniziato era bello, era divertente, poi perché pensa che ho cominciato a lavorare per una piccola azienda, e da questa piccola azienda dopo 2 anni e mezzo sono diventato socio, ed è ancora l'azienda in cui sto lavorando oggi, perché in dimensioni completamente diverse poi questa azienda è diventata la Diesel. Il marchio Diesel esplode proprio nel 1991 con la prima campagna pubblicitaria della serie For Successful Living, che stabilisce subito la fama di Diesel nel mondo della comunicazione. Renzo Rosso racconta come nasce la parola del marchio, Diesel. Questo nome era qualcosa veramente di alternativo, qualcosa che era il cambiamento del motore per le macchine, che passava da benzina a diesel, perché diesel dava più longevità nel tempo. Quindi mi piaceva questo nome, poi volevo anche un nome che fosse internazionale, pronunciabile da tutte le lingue del mondo con lo stesso sound. L'attività di impresa e la gestione di un'azienda agricola, però, hanno da sempre qualcosa in comune, di cui Renzo Rosso ha fatto esperienza fin dall'infanzia. Ma sono molto diverse, però per certi aspetti sempre imprenditoria si parla, quindi un'azienda rurale è un'azienda che gestisce le stagioni, gestisce quindi ad ogni stagione c'è un tipo di produzione diversa e devi comunque rischiare in proprio, dopo c'è anche in più c'è da vedere come funziona con il tempo, perché quello lì è sempre un po' un rischio che può determinare prodotti migliori o meno, o addirittura anche disastri con le tempeste. Grande però è stata anche l'eco della sua filosofia di impresa, un'ondata di novità che ha travolto i mercati stranieri. Ora come allora, il nodo per il Made in Italy è saper vendere. Non basta creare e avere idee, come spiega Renzo Rosso. Abbiamo iniziato da subito all'estero, perché era un prodotto così talmente difficile, cioè pensa che a quell'epoca là facevamo dei pantaloni, dei jeans che partivano, il primo prezzo era 100 euro, quindi dei prezzi carissimi rispetto a quello che era la realtà del mercato, non solo italiano ma mondiale, e quindi potevi andare a vendere solamente nelle grandi metropoli, in pochissimi punti vendita al mondo, per cui il fatto di essere internazionale per me era un obbligo, non potevo permettermi di essere nazionale. Lo sbarco è riuscito perfino nella patria dei jeans, l'America. Vendendo qualcosa di diverso di quello che esisteva, perché il denim più caro all'epoca era $54, quello di Ralph Lauren, il nostro partiva da 100, perché era un prodotto veramente caro per l'America e non c'era distribuzione per l'America, quindi mi battevo perché ero sicuro che avevo un prodotto veramente innovativo, che era proprio diverso dall'esistente, e ho proprio inventato una distribuzione, giravo i sabati e la domenica, per lì i negozi erano sempre aperti, cercavo dei punti vendita che potessero vendere il mio prodotto, dammi fiducia e vedrai quanto vendita riusciremo a fare per metro quadro su questo piccolo spazio. La strada percorsa si è consolidata punto vendita per punto vendita, prima di arrivare alla ribalta. E poi l'espansione è stata naturale grazie al punto di partenza, il prodotto. Questo il pensiero chiave di Renzo Rosso, presidente di OTB, Only the Brave, la holding che controlla molti marchi di moda. Poi l'azienda è cresciuta da solo denim, abbiamo fatto la linea globale, quindi vestiti per uomo, per donna, poi il bambino, poi borse, scarpe, poi gioielli, e poi orologi, e poi oggi facciamo la casa, facciamo tante cose, dalla cucina con scavolini ai mobili con Moroso, le lampade con Foscarini, Zucchi il textile. Poi ingrandendosi siamo anche andati su un'area un po' più alta, quindi l'area del prêt-à-porter, con marchi come Margiela, come D-Square, come Marni, come Victor Rolf, e quindi completiamo la gamma. Sono tutti brand che ho messo insieme con molto amore, tutti brand che rispecchiano la mia filosofia, il mio modo di pensare, di vedere, li trovo molto moderni e molto alternativi a quello che è il mondo della moda in genere. Ed ecco il segreto della filosofia aziendale. La squadra è quella che vince, cioè io da solo sono nessuno, quindi riuscire ad avere tanta gente che vivono quella emozione, che lavorano proprio con la passione di, non voglio gente che lavori solamente per passare le 8 ore o per avere il biglietto da visita con il nome stampato per il prossimo lavoro, voglio gente che proprio siano innamorati di quello che fanno. Lo testimonia il mix tra ritmo serrato e clima easy che si respira negli uffici della Diesel. Una fucina di idee e di equilibrio vita-lavoro. Oggi finalmente abbiamo una bella sede fatta proprio per loro, quindi posso vedere loro in palestra, al bar, al ristorante, abbiamo campi di calcio, di squash, di tennis, abbiamo l'asilo, spazi aperti, luce, tanto verde, tante piante, per vivere tutti insieme con un orario flessibile, la nostra missione. Figlio di contadini, Renzo Rosso ha sempre mantenuto un forte legame con la terra e quando si è verificata la possibilità di acquistare dei terreni sulle colline che circondano la sede dell'azienda, si è materializzato il sogno che egli aveva condiviso con suo padre. Acquistata nel 1994 da Renzo Rosso, presidente e fondatore di Diesel, Diesel Farm è una tenuta di oltre 100 ettari che si estende su 7 colline di Marostica, in provincia di Vicenza. lì facciamo il vino, facciamo l'olio, ho un orto che abbiamo tutte le coltivazioni organiche, bellissimo, quindi 80% di quello che mangio a casa è prodotto lì, e poi abbiamo anche dei capi di bestiame che sono liberi in natura, scopriamo che ne so i piccoli che nascono magari dopo un giorno o due, tutto alla, come una volta, allo stato naturale. Renzo Rosso è il fondatore dell'organizzazione no profit Only the Brave Foundation. Rosso è anche il presidente della società Red Circle, il Pelican Hotel di Miami e il Bassano Virtus 55, la squadra di calcio professionistico della sua città veneta, Bassano del Grappa. Si intrecciano radici e filantropia con un incontro eccezionale. Le origini dell'educazione di mio padre, quindi molto semplice, il rispetto della gente, non so, non lasciare il cibo sul piatto o raccogliere non so 10 centesimi se cadono per terra, quindi è un'educazione molto semplice dei valori della vita e ti porta ad avere una filosofia della vita positiva, cioè quindi anche aiutare la gente in genere, lo facciamo da sempre, l'ho sempre fatto per mia educazione. Poi un giorno ho incontrato il Dalai Lama e mi convinse a farlo proprio pubblicamente. Disse: tu devi usare il tuo nome, devi usare anche i tuoi brand per quello che fai socialmente parlando, e perché così se metti la tua esposizione avrai anche gente che potranno seguirti, potrai essere di ispirazione per tanti altri. Renzo Rosso è ormai un guru della moda under 30. Mi trovo bene con i giovani perché è proprio una mentalità aziendale, cioè soprattutto in Diesel lì siamo cresciuti facendo un prodotto per giovani, fatto da giovani, e quindi loro ti danno proprio un modo di pensare giovane, ti tengono giovane. Il messaggio che posso dare ai giovani è sempre lo stesso, molto semplice, quello mio, cioè credi in quello che tu sai fare. Io penso che ognuno di noi sa fare qualcosa di più di un altro, quindi su questo qualcosa che ognuno di noi è più bravo a fare, di crederci molto, di fare un grande training su questa sua dote e di portarla all'esasperazione, di portarla più grande che può, perché non è importante quanto grande tu diventi, ma è importante quanto felice tu sei. E se tu riesci a fare quello che veramente sei capace di fare, che ti sei a tuo agio, avrai una vita fantastica e positiva come la mia. E per tutti, i suoi messaggi sono racchiusi in un libro, Be Stupid, i cui proventi della vendita sono destinati alla Only the Brave Foundation. Quando sei troppo avanti, cioè, la gente proprio non ti capisce, cioè, il libro Be Stupid nasce proprio da riflessioni fatte con l'agenzia di quando fai le cose, abbiamo fatto le cose in azienda troppo avanti, hai poca gente che ti capisce e ti trattano da stupido gli altri, invece la realtà è essere quel giusto avanti che ti permetta di poter essere innovativo, che ti permetta di essere capito. E le origini, anche per chi è abituato al mondo e a parlare con chiunque, sono punto di partenza e di arrivo per Renzo Rosso. Da noi si parla inglese in fabbrica, per cui il dialetto è molto raro. Il dialetto è un po' più a casa con i miei amici, è sempre una lingua simpatica. Mi fa piacere, le mie origini sono veneto, per cui mi piace ogni tanto ancora sfornare qualche parola che mi ricorda un po' quando ero piccolo. Delle parole che neanche più esistono, tipo, non so, la piscinara è una pozzanghera, oppure il piron è la forchetta, parole che proprio neanche si usano nel dialetto corrente, per quando ci troviamo magari proprio fra gli amici storici del paese, che allora sì, lì si parla proprio la vera lingua delle origini e vengono fuori delle cose incredibili. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.